tanta vita. Voglio riguardare che vive e che è descritta da un'unità per senso oltre a scansi che te ma è già morto e poi tu d'un coup c'est important. Tenere uno sguardo e ritenere qualcosa dell'auto pezzo di spentolità. Regarde, ne regarde pas. Die Erinnerung an die Tränen aus diesen selben Augen. Es durch die Augen. Den Augen. Du regard. Du regard. Der Blick. Viens voir. Thank you. caché dans un arbre.